Buongiorno, accomodatevi pure. Buongiorno Chiesa, che bello vedervi, è sempre una gioia. Poi questi ragazzi, io voglio fare un applauso al gruppo di Lode, trasmettono talmente tanta gioia, grazie ragazzi. Wow, che bello essere a casa. Voi sapete che noi quando veniamo qua ci sentiamo proprio a casa, accolti, ed è sempre bello vedervi. Ci vediamo con le mascherine, senza le mascherine, con il caldo, senza il caldo, ma l'importante è che ci vediamo. Sapete, ieri riflettevo su una cosa, è stato il compleanno del mio nipotino, ho fatto 5 anni. Ed era il momento delle foto e lui ha iniziato a fare: non ce n'è Covid, non ce n'è Covid. Sapete la hit, quanti conoscono la hit dell'estate, non ce n'è Covid. Però ho pensato, quanti italiani per scherzare con questa hit stanno dichiarando non ce n'è Covid. Ci avevate riflettuto su questo? Ed è bello che noi assolutamente seguiamo le leggi, indossiamo mascherina, non ci abbracciamo, mi raccomando, ancora non possiamo abbracciarci, però è bello dichiarare: Dio, nella mia vita c'è protezione, voglio dichiarare che sto bene, voglio dichiarare che nel mio corpo non ce n'è Covid. Quindi continuiamo a fare questo, a dichiarare, ad avere fede. Abbiamo passato un momento un po' duro quest'inverno, vero? È stato un po' difficile per voi, per noi l'abbiamo vissuta molto su. Però Dio è con noi e la Chiesa di Gesù non può essere smossa. La Chiesa di Gesù, soprattutto nei momenti difficili, diventa ancora più forte, ancora più aggressiva nella fede. Noi abbiamo visto anche miracoli di persone per cui abbiamo pregato e grazie a Dio sono usciti da questa situazione, sono guarite. Quindi Chiesa, continuiamo a stringerci, a essere forti e a essere uniti come Chiesa. Forse loro vogliono provare, loro, il virus o qualsiasi cosa, vuole provare a distaccarci, ma noi diventiamo ancora più forti, ancora più uniti, perché è questo che fa la Chiesa di Gesù. Amen. Io sono super grata di essere con voi, vi saluto e vi lascio a mio marito bellissimo, meraviglioso, eccezionale. Grazie, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno. Ho mandato un messaggino al vostro pastore congratulandomi con lui per questa nuova meravigliosa avventura. Grazie a tutti voi, grazie per l'invito, grazie al team, grazie a tutti gli amici che abbiamo qui, perché ormai è vacanza. Dove andiamo in vacanza? Alla Piano Vangelo ad agosto, quindi ad agosto è fisso. Il pastore Sara, il pastore Vito, siamo stati con loro al matrimonio di un altro nostro amico, di Dario, abbiamo passato un po' di tempo insieme, è davvero un piacere essere qui. Siete felici di essere qui? Chi andrà al mare dopo? Non ce n'è Covid, quale spiaggia, proprio ci avevano detto no, metteranno i plexiglass tra un ombrellone e l'altro, cioè ragazzi, qui in Italia, noi italiani preferiremmo morire tutti quanti piuttosto che avere il plexiglass tra un ombrellone e l'altro, quindi, ma c'è Vito lì? Ah, non ti avevo visto. Quindi sono contentissimo, noi al nord l'abbiamo vissuto comunque in maniera molto particolare, è stato molto forte, capisco che al sud è stato vissuto diversamente. Noi fino alla settimana scorsa facevamo 4 gospel da sabato e 3 domenica, proprio per una questione di sicurezza. Abbiamo avuto delle persone che sono morte, 2 giorni fa il papà di una signora del team apostolico è morto a causa del Covid. È un po' diverso, e anche nelle altre nazioni, ma abbiamo visto così tanti miracoli anche online da dire: oh ragazzi, non ci ferma nessuno, non ci ferma veramente nessuno, e Dio è straordinario. Sì? Perfetto, ho una parola per voi che sono sicuro che vi incoraggerà, è qualcosa che Dio mi ha dato in questo tempo, ok? E riguarda il tempo anche di tempesta che abbiamo vissuto in un modo o in un altro. Non so quanti di voi leggono, ok? Non alzate la mano. Ok, chi ha voglia di leggere? Se volete lì troverete alcuni dei nostri libri, va bene? C'è scelte allo stato puro. Se tu sei una ragazza, stai andando al mare, non fidanzarti in questi 3 mesi, stai tranquilla, leggi prima il libro, stai tranquilla, tanto passerà l'estate come passerà anche questo ragazzo. Poi c'è tattoo, ok? Se genitori, non preoccupatevi, non è per fare i tatuaggi ai vostri figli, ma è un romanzo anche evangelistico, quindi se volete leggetelo. E poi ho fatto un libro senza titolo, se non sai cosa leggere, è un libro senza titolo, puoi andarlo a prendere lì, parlo, affronto argomenti come insicurezza, paura, vincere il fallimento e tantissime altre cose. Bene, siete pronti? Chiudi come gli occhi, guarda, fai questa preghiera. Dio, lo so che vengo qua ogni domenica e so che è ricominciato questa nuova stagione, dammi una parola che possa mettere radici profonde nel mio cuore. Aiutami a non ascoltarla in maniera meccanica. Aiutami a non dire, non pensare, ah, questa storia già la conosco, ma chiamo la tua rivelazione nella mia vita. Al di là delle parole umane che verranno dette, lavora dentro di me. Nel nome di Gesù. Amen, amen. Vai, quanti di voi conoscono la storia di Pietro che cammina sull'acqua? Vabbè, c'è qualcuno, mamma, sei venuto a predicare. Leggiamo insieme Matteo capitolo 14, penso che ci saranno dei versi proiettati. Guardate, Matteo capitolo 14, sono pochissimi versi. Lo so che la conoscete, ma seguitemi, ok? Non, quando alcune volte succede anche a me, i miei occhi guardano i versi ma non li leggono, perché già la conosciamo la storia. Succede anche a voi? Grazie della sincerità. Subito dopo Gesù obbligò i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la folla. Dopo aver congedato la folla, salì sul monte in disparte a pregare e, venuta la sera, rimase là da solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. Guardate, mi fermo un attimo, anzi no, leggiamo anche gli altri. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, lo so che la conoscete, seguitela, si turbarono e dissero, state seguendo, e dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. E Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Ed egli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami. Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ricordatevela anche questa frase. E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò e dissero: oh, incredibile, tu sei il figlio di Dio. È incredibile, se ne sono accorti finalmente, dopo tanti miracoli si sono accorti che lui era il figlio di Dio. Mettimi per favore i primi versi. Mi ha attirato la mia attenzione questo: subito dopo Gesù li obbligò. E io mi sono chiesto, e vi chiedo, secondo voi Gesù sapeva che ci sarebbe stata la tempesta o no? E perché li ha obbligati? Gesù, perché sei così cattivo? Perché sei così sadico? Perché ci stai obbligando ad entrare in questo tipo di tempesta? Secondo voi Gesù, Dio, sapeva che avremmo passato questo tempo? Sì, sicuramente, è ovvio, perché poi ci sono delle cose ovvie. E Gesù li obbliga a salire sulla barca e a precederlo. Andate pure senza di me. Andate. Ma Gesù sapeva che ci sarebbe stato la tempesta. E ho immaginato Gesù che sta lì, sta pregando, ed inizia, ha detto: oh, ora faccio una cosa, ora li raggiungo. Va, arriva, controlla se ci sono barche non ce ne sono, i pedalò sono finiti, i ciambelloni non ci sono più. Ho detto: sai cosa faccio? Io cammino sull'acqua. E inizia a camminare sull'acqua, ok? Inizia a camminare nella tempesta. E io mi sono chiesto: Gesù, ma perché ti è venuta tutta sta voglia di camminare nella tempesta? Non potevi calmarla la tempesta? Se io fossi stato al posto di Gesù, L'avrei calmata la tempesta. I discepoli erano lì che stavano gridando. Ognuno di noi avrà fatto delle preghiere durante questo periodo e continua a fare queste preghiere. Nella nostra chiesa abbiamo aiutato 140 nuclei familiari che non arrivavano a fine mese. Okay? Quindi non è soltanto una questione di malattia, c'è un circolo vizioso che si innesca. E c'è una tempesta in corso, probabilmente fisica, economica, emotiva nella nostra vita, e Gesù decise di entrare in questa tempesta. Ho detto: Gesù, perché non hai calmato la tempesta? I discepoli erano lì che stavano avendo dei problemi, perché tu non l'hai calmata? E lo Spirito Santo mi sussurrava insieme a Gesù: io non sempre calmo la tempesta, ma di sicuro ci cammino in tutte le tempeste della tua vita. E io voglio darti un qualcosa di certo oggi. Forse stai vivendo una tempesta. Gesù è in questa tempesta. Forse lui non la calmerà, ma lui sta venendo verso di te. Ed è bello perché è lì, sente i discepoli gridare, tu ti avvicini. Immagina te che cammini sull'acqua. Immagina. Sei lì che cammini sull'acqua e a quella distanza inizia a sentire i discepoli che gridano: aiuto, aiuto, aiuto. E Gesù è lì che non dice niente. Sta zitto, ragazzi. Voi cosa avreste fatto? Ehi, ragazzi, sono io. Sto arrivando a salvarvi. Guardate come cammino sull'acqua. Gesù non dice niente. I discepoli continuano a gridare: è un fantasma, è un fantasma. E Gesù dice: è un fantasma. Poi dico io: Gesù, tutto bagnato, calmala sta tempesta. Invece andava verso i discepoli e continuavano a gridare: è un fantasma, è un fantasma, è un fantasma. C'è un verso in Marco, sempre della stessa storia, che dice così, guardate, Marco 6,48. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia andò incontro a loro camminando sul mare. E fin qui vedo l'amore di Gesù. E voleva oltrepassarli. Scusami, in che senso voleva oltrepassarli? Cioè, e vedendo i discepoli che stavano morendo, lui decise: no, oggi no, passa oltre. Ha detto: Gesù, ma in che senso passi oltre? Cioè, io ho un problema in questo momento e tu stai cercando di passare oltre. E come, ieri ero a questo matrimonio, si parlava poi l'altro ieri, parlando, chiacchierando con la gente, salutandolo, non sono riuscito a farmi il buffet. Ok, l'aperitivo iniziale. Ho visto arrivare un vassoietto con la zucca, quella fritta nella pastella. Apriti cielo, ho detto: oh mamma mia, devo arrivare lì. Okay, devo arrivare lì, però nel frattempo io ero un tavolino un po' lontano, sapevo che c'era della gente che magari mi conosceva. Ho detto: devo attuare proprio la strategia dell'ignoramento. Sai, quando la gente ti guarda, cerca di salutarti e tu fai finta di non conoscerla. Perché infatti mi hanno fermato, ho perso la zucca con la pastella. E secondo me Gesù stava facendo in questo modo, stava cercando di ignorare i discepoli qui e riflettevo. Dio non vuole essere soltanto desiderato e riconosciuto. O meglio, Dio non vuole soltanto essere conosciuto, perché noi lo conosciamo Gesù, e i discepoli conoscevano Gesù, ma Gesù stava dicendo lì in quel momento: io desidero che voi possiate riconoscermi e desiderarmi nei vostri problemi. Molte volte è dovuto: Gesù, tu sei Gesù, io ti conosco e tu devi risolvere i miei problemi. E invece Gesù sta dicendo: riconoscimi. Mentre io cammino nella tua tempesta, riconoscimi e desiderami e io mi fermerò. C'è una differenza tra Pietro e i discepoli. I discepoli dissero: è un fantasma! E invece Pietro disse e lo riconosce come Signore. Come stai riconoscendo Gesù nei tuoi problemi? Lo stai chiamando fantasma? Quando sei nella notte, che cosa vedi, un fantasma o riconosci Gesù come Signore? È interessante perché è qui che Pietro riconosce Gesù come Signore, non come Maestro. In tutte le altre parti nella Bibbia lo riconosce come Maestro. E molte volte noi desideriamo da Gesù solo gli insegnamenti, ok? Solo un qualcosa. Andiamo in chiesa per sentire la predica. Tante volte l'abbiamo detto, questo tipo di affermazione. Ma Gesù sta dicendo: io voglio diventare il Signore della tua vita. Il Signore significa io voglio comandare. Paolo nelle sue lettere dice: io sono un prigioniero di Cristo, prigioniero di Gesù. Tu sei il Signore della mia vita, quanto Gesù è il Signore della tua vita. È per questo che Pietro è stato l'unico a dire: comandami di venire da te, e ha camminato sull'acqua, probabilmente oltre a tante altre interpretazioni. Sono qui per dirti che Gesù desidera che tu possa diventare un suo schiavo, un suo prigioniero d'amore, e lui deve diventare il tuo Signore. È come quando un bagnino ti salva la vita al mare, lui diventa il tuo salvatore, e per molti Gesù è il proprio salvatore, ma non è il tuo Signore. Ti ha salvato la vita, ma è diventato anche il Signore della tua vita. Guardate, c'è spiaggia, tutta la gente, prima di questa storia c'è la moltiplicazione dei pane e dei pesci, quindi hanno mangiato, avevano la pancia piena, eccetera, eccetera. Spiaggia, barca, i discepoli, e lago, Pietro. In che zona ti vuoi posizionare oggi? In che zona la tua vita è posizionata? Ok, e dove stai trovando sicurezza? C'è tanta gente, ci sono alcune persone che non stanno neanche venendo in chiesa, perché ormai si sono, alcuni hanno detto: pastore, ma quindi continueremo a fare tutto online? Ma... basta, tutto online, alza il sederino, forza, non stare qui, esci. Alcuni, molti sono comodi nella propria barca, i discepoli erano lì, ok, io ho la mia barca, ho la mia zona di comfort. Pietro invece decide di uscire dalla barca e di fare un passo fuori, tutta la storia che noi conosciamo. Se fossimo stati noi discepoli avremmo detto: Gesù, calma la tempesta! Gesù, calma la tempesta, fai un miracolo. Avremmo iniziato a pregare, a intercedere, a scrivere nei gruppi WhatsApp della famiglia: preghiamo per un miracolo. Invece Pietro non sfrutta la tempesta per vedere un miracolo, ma Pietro sfrutta la tempesta per vivere un miracolo. In che modo tu vuoi vivere un miracolo in questo tempo? Vuoi essere un attore o vuoi essere uno spettatore in questo tempo? Vuoi essere soltanto di quelli che diranno: chissà come andrà? Io credo, Chiesa, che questo è un momento cruciale, va bene? Siamo e ci stiamo avvicinando sempre di più agli ultimi tempi, si stanno realizzando tante cose, e non sono qui per fare scatologia, ma dobbiamo passare da un livello di sopravvivenza a un livello di sovrannaturale. Io credo che questo periodo sia arrivato in tempo perché la Chiesa era troppo comoda, guarda, ve lo dico proprio in maniera chiara, è come se all'improvviso la Chiesa si fosse oh, siamo negli ultimi tempi, oh, ragazzi, Chiesa, famiglie, questo è il momento in cui dobbiamo agire, questo è il momento in cui noi, Chiesa, dobbiamo essere quel miracolo che esce dalla barca e va a prendere quelle persone. Loro non avevano bisogno di un miracolo, avevano una barca. Pietro non doveva camminare sull'acqua, non c'era scritto da nessuna parte, lui aveva una barca, non aveva questa necessità. Ma Pietro decise di sfidare la normalità. Stanno chiamando questo periodo la nuova normalità. Ok? Siamo entrati in un periodo dove la normalità è cambiata. Qual è la tua normalità? Che tipo di sovrannaturale stai vivendo nella Bibbia? Ora finirà questo momento, andremo a casa, pregheremo, magari ci emozioneremo. E in che modo vivrai la tua spiritualità? Pietro voleva realizzare un sogno. Pietro ha visto Gesù e ha detto: se tu cammini sull'acqua, anch'io voglio camminare sull'acqua. Pietro fu l'unico che ha deciso di imitare Gesù. Tu chi stai imitando? Sul serio, chi stai imitando? Stai imitando il buon cristiano? Stai imitando il buon genitore? Stai imitando la brava persona? Pietro desiderava una nuova sensazione. In queste settimane io pregavo a Dio, dicevo: Dio, ho bisogno di qualcosa di fresco. Ho bisogno di nuove sensazioni, ho bisogno di nuove emozioni. Da quanto tempo non ti emozioni mentre leggi la Bibbia? Da quanto tempo non ti entusiasmi, non piangi, non succede qualcosa di strano mentre preghi? I tuoi alleluia sono diventati solo un suono. Io sto chiedendo a Dio: Dio, ho bisogno di qualcosa di fresco ogni giorno. Non voglio che il mio cristianesimo diventi quella barca comoda dove io sono. No, voglio affacciarmi in questo nuovo tempo. Guardate, i discepoli si affacciavano dalla barca e vedevano la possibilità di affondare. Pietro si affacciò dalla barca e vide la possibilità di camminare. Che strano. Stesso posto, due prospettive diverse. Cosa vedi tu? Vedi la possibilità di affondare? O vedi la possibilità di camminare e fare qualcosa che non hai mai fatto? C'è la possibilità di affondare, Pietro è affondato. Pietro è affondato. Ma Gesù gli ha teso la mano. La Bibbia non lo dice, ma probabilmente ha continuato a camminare per entrare poi nella barca. Quindi anche se tu cadrai, anche se tu affonderai, c'è Gesù che ti porterà e ti farà e continuerà a farti camminare sull'acqua. Pietro sfidò la sua fede. A che livello di fede stai agendo oggi? Sul serio, a che livello di fede stai agendo oggi? Perché molte volte noi non siamo consapevoli di quello che è il nostro livello di fede. Veniamo in chiesa da tantissimo tempo e ci abituiamo alla nostra zona di comfort. La tua fede, stai vivendo potenza nella tua vita, voglio parlarti in maniera chiara, stai vivendo guarigioni nella tua vita, stai vivendo dei miracoli nella tua vita, perché se tu non li vivi ogni giorno, allora c'è qualcosa che non va nella tua vita, stai sprecando il tuo cristianesimo, vai a mare, non serve che vieni qui. Vi ricordate la donna del flusso di sangue? Quanta gente stava toccando Gesù? Allora che differenza c'era tra il tocco della donna e il tocco di tutta la gente che stava lì? Secondo voi tutta la gente che stava attorno a Gesù non voleva anche un miracolo? Ma figurati, sicuramente voleva un miracolo. Però c'è stato un tocco che ha generato potenza da Gesù. Quanti saremo qui? 100, 150, 100 e qualcosa? Chi genererà potenza in Gesù questa mattina? Quanti? Siamo in tanti, ma non la fede di tutti. Chi? Spero la fede di tutti, ma Dio ha bisogno di una fede che attivi la sua potenza. La prospettiva di Gesù è diversa. Gesù ti vede e dice: tu puoi camminare sull'acqua, non affonderai. I discepoli vedevano la folla ed erano anche scocciati di quello che stava succedendo, perché erano concentrati sul disagio della folla. Gesù si girò e non disse: ehi, ma basta ragazzi, non toccatemi. Guardate la prospettiva di Gesù com'è diversa. I discepoli si concentrarono sul disagio della folla attorno a Gesù e Gesù si concentrò sull'unico tocco tra tanti che attivò potenza nella sua vita. Sul serio, noi abbiamo bisogno di potenza nella nostra vita e questa potenza deve essere attivata soltanto da Gesù. Siete d'accordo con me? Ok, Gesù comandami di venire sull'acqua, io voglio camminare. Ok, non sto a commentare ora tutta questa parte, eccetera, eccetera. Pietro va, cammina sull'acqua, arrivato a un certo punto, inizia ad affondare. E Gesù gli dice: uomo di poca fede. Uomo di poca fede a me? Cioè, a me? Come avremmo fatto noi? E loro... perché noi siamo a me uomo di poca fede, diglielo a Giovannuzzo, a lui, guarda loro come se la stanno facendo solo. Io ho detto: Gesù, c'è qualcosa di sbagliato nella Bibbia. Come uomo di poca fede? L'unico uomo che ha camminato sull'acqua gli dice uomo di poca fede. Se Pietro è un uomo di poca fede, io mi ritiro. Cioè, proprio, io mi ritiro, Gesù. C'è qualcosa che non va dentro di me, c'è qualcosa che non va nel mio cristianesimo, perché se lui aveva poca fede, io non so proprio cos'è la fede. E lo Spirito Santo mi sussurrava: la fede che ti fa fare il passo fuori dalla barca è diversa dalla fede che ti permette di camminare sull'acqua. La vita cristiana è fatta di livelli di fede. Non è la fede di 50 anni fa, di 30 anni fa, di 10 anni fa. Non è la fede di ieri che ti ha portato a fare determinate cose. Questo è il periodo dei matrimoni. Tanti ragazzi, tanti giovani si sposano e hanno fede. Hanno fede per i soldi. Hanno fede. Wow, abbiamo ricevuto un sacco di miracoli. Ci hanno fatto lo sconto. Ci hanno messo il crudo nel prezzo. E Dio, sposati. Ok, cioè, perché ci vuole fede per sposarsi. È vero, anche noi abbiamo attivato la nostra fede, realmente, come tantissimi di voi. Ma ci vuole un'altra fede per rimanere sposati. E vedo tanta gente matura qui. È vero che ci vuole fede per sposarsi, ma poi la tua vita passa per livelli di fede e c'è un altro tipo di fede per rendere il matrimonio stabile. Amen? Amen? Quanti sono in questa fase, quella di rendere il matrimonio stabile? Quanti sono sposati da più di 10 anni? Lo vedevo dai sorrisi, si abbassate pure là. Ok, ok. Quindi... fede per sposarsi, fede per rendere il nostro matrimonio stabile. Dai, ho quasi terminato. E quando Pietro iniziò ad affondare, voi siete gente di mare, ok? Quando voi siete sul pedalò e inizi a mettere il piede in acqua, sprofondi o inizi ad affondare? Che strana questa cosa, la Bibbia mette proprio... va contro anche la fisica, inizia ad affondare. Io non lo so quali sono le sabbie mobili che ti stanno portando giù. Gesù non ti fa sprofondare all'improvviso. La fede è fatta di livelli e tu inizi a sprofondare. Ma Gesù non ti farà arrivare sotto perché lui tenderà la tua mano. Forse stai sprofondando in questo momento, forse stai lottando contro determinate cose, forse non ci credi. Allora Gesù, perché questo? Perché quello? Io non sto capendo, io non sto comprendendo. Smettila di guardare il vento, che poi il vento non si vede, è qualcosa che non c'è. È un po' come le preoccupazioni, ok? Qualcosa che in realtà non esistono perché sono cose che ancora non sono successe. Gesù calma la tempesta o no? Chiedi l'aiuto del pubblico. La calma o no? La calma o no? Sicuro? Sì, ok. Mi metti i versi un attimino, l'ultima parte del verso. Allora, guardate. Signore, salvami subito. Gesù stesa la mano e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Poi si chiedono perché Pietro aveva l'autostima bassa, ecco. E quando furono saliti sulla barca, il vento... Gesù calma la tempesta o no? Ma non sgrida il vento, come in altri passaggi. Lui non dice vento calmati. Molte volte ci agitiamo, Dio calma, Dio risolvi questo problema, Dio ti prego, non vedi quello che sta succedendo, Dio agisci, Dio fai, Dio. E Gesù è lì che ti dice, guarda, la cosa importante, la cosa fondamentale è semplicemente che io sia nella tua barca. Okay. Assicurati che io sia nella barca. Il punto non è quello che Gesù può fare, perché lui ha già fatto tutto quello che poteva fare. Assicurati che io sia nella tua barca. Questa mattina fai un check-up della tua vita e fai in modo che lui sia nella tua barca. Molte volte preghiamo, leggiamo la Bibbia, viviamo il nostro cristianesimo davvero in una maniera meccanica. Fermiamoci. Io voglio pregare questa mattina con voi chiedendo a Dio proprio una rivelazione e comprendere se Gesù è veramente nella nostra barca. E Gesù, guardate, vai avanti, vai nella parte di prima. Diffusa notizia. No, vai su all'inizio. L'altro, Guardate, i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma! E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Voglio dirti una cosa, Gesù questa mattina non risponderà alla tua paura. Gesù questa mattina risponderà al tuo grido. C'è troppa gente che si sta spaventando e poca gente che sta gridando a Gesù. Gesù ha bisogno che tu apri la bocca e lo inizi a riconoscere come Signore. Gesù, io ti do la mia vita. Gesù, io ti affido il mio lavoro. Gesù, io ti affido la mia relazione. C'è troppa gente che chiede a Dio, come anche ai pastori, opinioni, non consigli. Perché, ma mi dai una tua opinione? Ah, ok, tanto avevo già fatto in quel modo lì. È un'opinione. Io ti posso dare la mia opinione, tu puoi non ascoltarla. Se tu mi chiedi un consiglio, è perché tu devi ascoltare il mio consiglio, se no non ti do un consiglio, ok? È finito il tempo delle opinioni. Lo stiamo vedendo attorno a noi. Famiglie sono distrutte, ragazzi sono confusi, in tutti i sensi, in tutti i sensi. Stiamo lottando con famiglie, stiamo lottando con coppie, stiamo lottando con adolescenti, stiamo lottando con giovani. È finito il tempo delle opinioni. È importante che noi come chiesa possiamo alzarci. E le parole sono stanche. Basta predicare: sì, Dio può fare miracoli, con Dio puoi camminare sull'acqua. La gente vuole vedere gente che cammina sull'acqua. La gente non vuole vedere: sì, felice, non ti preoccupare, Dio ti aiuterà, e tu piangi. La gente vuole vedere gente gioiosa e chiede: ma come fai ad essere così felice in un periodo del genere? Non lo so neanche io, è una gioia sovrannaturale, è qualcosa che è prodotto dall'amore di Gesù nella mia vita. La gente vuole vedere che tu lotti per il tuo matrimonio. La gente vuole vedere che tu lotti per i tuoi figli, che tu lotti per il tuo lavoro. La gente vuole vedere che tu lotti per vivere in purezza, per vivere in santità. La gente ti vuole vedere camminare sull'acqua. Ma ci preoccupiamo? E se affondiamo? Perché siamo interessati al giudizio degli altri, ok? Soprattutto nel periodo estivo. La bacheca social è diventata una promozione di corpi abbronzati, spellati, nudi. Prima si usava il costume. Prima era bello perché dovevi sceglierlo un costume. Oggi no, non serve sceglierlo, ok? Ed è interessante che la gente che non usa il costume, l'età media si alza sempre di più. Dice: vado, dai, un po' di contegno, per favore. Posso, non è una questa predica. Chiudi gli occhi con me questa mattina. Io voglio pregare perché tu possa passare ad un nuovo livello di fede. Forse non quello di iniziare a camminare sull'acqua, ma quello almeno di mettere il piede sul bordo della barca. La fede è fatta di livelli. Perché molti di voi possono dire: no, ma io non sono capace. Stai tranquillo, la fede è fatta di livelli. Se tu sei dietro la barca, inizia ad avvicinarti al bordo. Se tu pensi di essere già al bordo, inizia a mettere il piede sulla barca. Se tu hai già il piede sulla barca, inizia a mettere e appoggiare il piede sull'acqua. Se tu pensi di avere già il piede sull'acqua, inizia a mettere anche l'altro piede sull'acqua e lascia il bordo della piscina. Non è facile. Lo so che è più facile a dirsi che a farsi. È per questo che la gente vuole vedere persone che lo fanno e non persone che lo dicono. Spirito Santo, io questa mattina voglio zittire ogni tipo di paura. Sento che ci sono proprio delle persone che stanno lottando con le proprie paure in questa mattina. Noi prendiamo autorità nel nome di Gesù, dichiarando che ogni paura, ogni senso di inadeguatezza, ogni paura di come finirà, ogni paura di chissà se riuscirò a ricominciare, chissà se questo fallimento mi porterà da qualche altra parte, ogni paura che sta sussurrando alle nostre menti dicendo: ormai è finita, hai sbagliato, hai peccato, stai continuando a farlo. Noi la zittiamo ora nel nome di Gesù. E io voglio chiamare ora, in questo momento, quell'amore capace di cacciare via la paura. Fa sentire amato ognuno di noi e non permettere che la paura ci trattenga e ci isoli. Il diavolo sta già cercando di isolare la Chiesa, spaventandola, ma noi non gli permetteremo questo. Dio vuole portarti a un nuovo livello di fede. E voglio chiederti questa mattina, se tu, mentre parlavo, il tuo cuore ha iniziato ad agitarti dicendo: oh, io ho bisogno di questo tipo di fede, io ho bisogno di questa fede per riuscire a raggiungere questo obiettivo, io ho bisogno di questa fede per guadagnare i miei figli a Gesù, io ho bisogno di questa fede perché non sto vivendo più quello che vivevo all'inizio, io ho bisogno di un nuovo livello di fede, io ho bisogno di passare da un livello di sopravvivenza a un livello di sovrannaturale. Se questo è quello che vuoi chiedere a Dio in preghiera, alzati nel posto dove sei questa mattina. Se vuoi dire: Dio, è da tanto tempo che i miei piedi sono asciutti, sento il bisogno di bagnarli, sento il bisogno di andare oltre, ho paura di affondare, ho paura di non camminare. Non preoccuparti se non sai camminare sull'acqua, nuota se non sai camminare, ma rimani nell'acqua, è nell'acqua che vivrai i miracoli, non è nella barca che vivrai i miracoli, è fuori dalla tua zona di comfort che vivrai quei miracoli che Dio ha pensato per la tua vita. So che ci sono altri che vorrebbero passare a un nuovo livello di fede, lo so che è più comodo rimanere sulla barca, è per questo che forse si vedono meno miracoli, perché è più comodo stare nella barca. È molto più comodo, soprattutto d'estate. Solitamente ad agosto si dice: lo farò a settembre. E molti di voi in questo momento stanno rimandando. Lo farò dopo, no. Queste vacanze me le voglio vivere così. Queste vacanze voglio viverle così. E Dio ti dice: è ora che devi uscire dalla barca. È oggi che devi iniziare a vivere in purezza. È oggi che devi consacrare la tua vita. È oggi che mi devi consacrare la tua economia. È oggi che mi devi consacrare il tuo matrimonio. È da questo momento che devi iniziare ad agire con fede per prendere in mano il tuo matrimonio. Ah no, no, ma è finita, è finita. Non è finita per Dio. Dio può ricostruire, Dio può sistemare, Dio può chiamare all'esistenza le cose che non sono. Basta giustificare i nostri fallimenti perché desideriamo altro dalla volontà di Dio. Alza la tua mano con me. Voglio fare questa dichiarazione proprio in questa mattina. Dio, nella tua parola c'è scritto che se qualcuno ha bisogno di fede, deve venire da te a chiederla. Noi siamo qui perché abbiamo bisogno di fede. E con molta semplicità io ti chiedo: dammi fede per affrontare questo periodo. Dammi fede per vivere quello che sto vivendo. Dammi fede per non affondare. Dammi fede per rimanere in piedi. Dammi fede per rimanere nella tua casa. Dammi fede per essere quel miracolo che la gente vuole vedere nel mio quartiere, nel mio condominio, nel lido dove vado, nella spiaggia, ovunque. Dio, dammi fede. Sento dei cuori che stanno proprio gridando, dicendo: Dio, dammi fede, gridaglielo, digli: dammi fede, Dio, ho bisogno di te, ho bisogno di te, ho bisogno di questa fede, ho bisogno di questa fede. Sento che lo Spirito Santo vuole proprio dare gioia, vuole dare entusiasmo, vuole riattivare quella fede nella tua vita. Se questo è il tuo desiderio, alza le tue mani dicendo: Dio, voglio questo questa mattina, sono qui per questo, sono qui per questo.